La ciguetta la porta i sogni, e se la vusa la fa pagura. La ciguetta la varda tut, anche se la noce le scura. Specie un attimo a dormire su ta questa luna grassa. Me te conti se una storia e intanto la noce la passa. Pizza mo la tua candela e varda un drizzo in questi occhi che han vedu di rob che il temp la scondugion del so bec. Scolta tut e di na got che se ti rifè il paltò e te che decreta questa storia, se de no, incazzito. Era un temp prima del temp che stremiva anche al demoni, piede strani personaggi, e vende questi all'era il Tony. L'era gross come una vacca, il dondava come un look, e l'era bravo a far fare quanche l'era mea ciuc. Una sera senza stel, el sen via per l'usteria, el fa gnanca 30 pass e che solta fe una stria. Faccia smorta, cavei gris, dencia punta e oggi de pisa. Tony el pensa, adesso fu! El se fa dos la pisa, ma la donna dell'inferno la se slarga fa il mantel. Tony el varda, fis, menciò, ma il vedna gotte bel. Tutto il ventro piede sang e una spada in di busec. Qualsiasi onde questa terra, el saris restale sec. Ma la stria la tira in gigul e la vusa, fa quei cos! Tony el trema men la feia, premeste, se caga dos. Per piacere, Tony, fare, stammi a lei men bacalà. Forse ed mai vedi una stria, ma sta stria le drea crepà. La mort per tuc, le nuselage con tel so bec. E questa volta il mabecà, proprio dritz in di busec. E l'era proprio in scena, e stria o mea stria, la spada della mort, era drea portala via. E no, truia sciavaca, sarò anche un ciuca te, ma veri mea vede la mort in sel mes in te. A so proprio mea chi te sed, se te sed cattiva o buona, ma pensa mea che il Tony e la sacrepa una donna. Se te sed un diaul, nem, te vegni drea all'inferno. Se te sed un angel buona, salutum il Padre Eterno. Ma adesso me a gode fa la roba che va fada, perciò te strepifa del ventro questa spada. E zam, una gran luce, e poi anche una fiammada, intanto il bravo Tony el tira fa la spada. E il ventro della stria adesso le piede bis, la faccia della donna par quasi che l'usis, e riu a John can fulmin, e tron, e feug, e fiam, colpisen una pianta e brusen tu ciram. Il Tony ormai l'è in aria, il segnan cascundu, el dis, son giamo ciuc e ognamo beu, però ormai son che, con shine di man sta spada, quando è che finirà tutta sta paia sciada? E leva su la stria, che adesso la par guarida, la viaggia bella drizza, e che piogna la ferita. Se prima all'era brutta de fatra su un purcell, adesso duma vardala. Vabbè, el Tony, in besui, el varda sta bellezza, la che va visen e che fa anche una carezza. Sei stato coraggioso, mio caro Salvatore. Da oggi il tuo vessillo sarà il tuo stesso onore. E il Tony, bel gasà, con la faccia de pircot, e il dis de sé, mal sa che la capina got. Sono figlia del dio Nacia e della fata di Ossino, e tu impugni la spada di Sguarapeto il primo. Neppure tu comprendi il grande tuo destino, che ha le sue radici da quando eri bambino, abbandonato in fasce sotto il monte Nava, e poi allattato da una capra che brucava. Gli spiriti del monte ti hanno custodito, e spero che ormai tu abbia capito. Il tuo vero nome non è Tony Baloni, perché tu sei figlio di folgori e tuoni. Siete il figlio di chi che sta in volt, figlio di stralush, se chiamet troppo cold. Non sono una strega, sono una fata. Mi hai tolto dal ventre la spada incantata, proprio la spada a te destinata. Ma Lilian l'oscuro l'aveva rubata, Lilian il nero, padrone del vuoto, figlio dell'ombra e del terremoto. La spada stregata mi colpì a tradimento, per questo sono qui, in questo momento, La spada di Sguara non può essere estratta se non dal figlio di chi l'ha fatta. La spada di Sguara non può essere usata se non dal figlio di chi l'ha forgiata. Io sono Teodolinda, la figlia del monte. Ti benedico con un bacio in fronte. Iesh del Toni ades jen sever, e la sua pagura la par roba de ier. Dopo vint'anni, scuscià come un pioc, ades basta, resta che in genoc. Toni Baloni ades el ghe pieu, le riu al tem de levasseu. Pudevi crepà, però sundré a nas, e go questa spada che tai anche i sas. Prepare so munt, che se gire ti stort, rua el trop colt, con ti spala la mort. Sto toc de terra, ades el curi, la mia parola l'è, vel giuri.